Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune informazioni di servizio. Il nostro sito radio24.it. Lì potrete scaricare le puntate in tempo pressoché reale, visitare il sito, dialogare con i giornalisti che hanno un blog. Il mio lo conoscete, Guardie Oladi. Lo trovate anche con un motore di ricerca, oppure se volete, se siete lettori del Sole 24 ore, andate sull'home page del Sole. Poi la mail unabusoalgiorno@radio24.it. devo dire che mail e non solo, perché il caso che tratteremo e affronteremo oggi è giunto addirittura via fax, con un percorso un po' tortuoso, quindi vi invito ad usare sempre la mail, che oggi è il mezzo assolutamente congeniale, direi quasi unico nelle forme di comunicazioni rapide. Allora, il caso che affrontiamo è un caso, devo dire, veramente paradossale, quello di un'impresa di Malgrade. Siamo in provincia di Lecco, la ditta Fratelli Greppi, che aveva chiesto un contributo, ma adesso sentirete bene la storia. Allora, questa pratica inizia nel 1989, si chiude con una sentenza favorevole del giugno del 2008, quindi in qualche modo, ma poi lo sentiremo, lo Stato risponde, ma non risponde chi? Il soggetto primo chiamato in causa, vale a dire il Ministero per lo Sviluppo Economico. Come voi sapete, io non faccio mai una puntata senza non soltanto avvertire tutte le controparti, senza averle cercate più e più volte, perché questo è il mio compito, o almeno come lo io interpreto, quindi con una deontologia professionale assoluta. Dopo settimane e settimane di rincorsa del Ministero per lo Sviluppo Economico, l'ultima mail che abbiamo mandato è stata spedita il 10 maggio 2010 alle ore 11:16. Abbiamo deciso di affrontare il caso perché evidentemente al Ministero il caso non interessa, a noi sì, perché è veramente paradossale e paradigmatico, e per questo noi ne parliamo con la dottoressa Fulvia Greppi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, racconti un pochino quello che è successo all'impresa di famiglia. Dunque, la nostra società nel 1989 aveva effettuato un investimento per innovazione tecnologica e organizzativa, usufruendo di una legge che era la 121 del 1987, pertanto avevamo presentato al Ministero dell'Industria e del Commercio il nostro investimento. Pari a 338 milioni di lire. Quel momento il contributo era del 50%, certo. La domanda era di 338 milioni e 500, mentre l'investimento era del doppio naturalmente. Benissimo, quindi questa era la parte che si sarebbe dovuta collare lo Stato. Benissimo, sì. Poi? Poi tra il 1990 e il 1994 l'amministrazione competente ci aveva richiesto più documentazione, naturalmente per entrare nel vivo di delle verifiche di quello che era stato il nostro investimento. Abbiamo sempre inviato la documentazione, a quel tempo veniva mandata per posta, fino a che un bel giorno, che era il 1997, il 18 di febbraio. Quindi a distanza di 10 anni o quasi comunque dall'inizio della tiritera. Perfetto. Il Ministero ci comunica che il contributo ci è stato revocato e riceviamo in quel momento un telegramma, cerchiamo di contattare il Ministero per capire qual era il documento, ci appoggiamo alla società di consulenza che ci aveva seguito in questa pratica e veniamo a sapere che secondo loro non abbiamo presentato un documento che a noi non ci risultava mai richiesto. Ok, allora revocato vuol dire che ve l'avevano dato quel contributo ma che poi ve l'avrebbero tolto a distanza di 10 anni, è così? Sì, che il contributo era approvato, ma invece non ci veniva liquidato, quindi ci veniva revocato in quanto non avevamo mandato la documentazione. Ok, comunque voi non avete mai ricevuto quel contributo, allora contemporaneamente siete stati informati del fatto che non ve l'avrebbero dato e lo avrebbero revocato. Perfetto. Benissimo. Allora a questo punto voi che cosa fate? Dite, oibò, ma insomma quel documento mai lo avete chiesto? Appunto, noi abbiamo chiesto al Ministero, abbiamo suggerito, non avevamo mai ricevuto questa richiesta. Quindi, e ovviamente voi siete in grado di comprovarlo questo, l'avete comprovato, che mai quel documento vi era stato richiesto? Sì, noi abbiamo chiesto di inviarci come ce l'avevano richiesto, qual era la modalità e se potevamo inviare il documento, visto che poi ce l'avevamo perché era semplicemente un'autocertificazione. Abbiamo, benissimo, ecco. Successivamente, invece non abbiamo mai avuto nessuna risposta al Ministero, allora in quel momento abbiamo deciso di fare ricorso. Benissimo, allora diciamo che era un'autocertificazione, perché poi uno dice ma chissà dove si incagliano le pratiche al Ministero, un'autocertificazione di cosa, dottoressa Greppi? Dovevamo specificare spiegare che noi avevamo due sedi a quel tempo, una Garlate e una Sondrio, quindi l'investimento come era suddiviso fra le due sedi, quindi avevamo, era una precisazione, un'autocertificazione. Benissimo, e a quel punto voi fate giustamente ricorso. A quel punto per principio decidiamo di fare ricorso, perché noi l'investimento l'avevamo comunque già fatto, perché nel frattempo erano passati 10 anni. Certo, i soldi ce li avevate messi, aspettavate il 50% dello Stato. E quindi abbiamo cercato uno studio legale che ci appoggiasse e abbiamo cominciato a fare ricorso. E già lì ci avevano detto che comunque i tempi non sarebbero stati brevi. Beh, indubbiamente. Per 5 anni dovevamo stare comunque tranquilli. Perché... Lei sa che la giustizia in Italia è velocissima per i soliti ignoti, no? Quindi esatto. Ecco, se uno è ignoto non è veloce, è ovvio. Quindi abbiamo seguito tutto l'iter, abbiamo fatto quindi prima la prima commissione, fino a che siamo arrivati al Consiglio di Stato, quindi, che era il massimo organo al quale ci potevamo appellare. Certo, un organo amministrativo che dopo il TAR è intervenuto e ha detto che cosa? Il Consiglio di Stato ci ha detto che avevamo ragione e quindi aveva annullato la revoca da parte del Ministero. Oh, benissimo, questo avviene il 24 giugno del 2008. Il Consiglio di Stato, l'approvazione della sentenza è del 29 ottobre del 2008. Ah. La decisione è la 5401/2008, certo, su qualunque sito. Certo, benissimo. Allora, quindi in buona sostanza, quasi 2 anni fa il Consiglio di Stato dice a voi, ma soprattutto al signor Ministro dell'epoca e quelli prima, quelli dopo, quelli che verranno, insomma, a questa imprenditrice di Lecco, a questo gruppo, perché non date i soldini? E in questi 2 anni che cosa succede? Soldini di cui il massimo organo amministrativo dice l'impresa ha bisogno, nel senso che è legittimo che voi glielo diate. E in questi 2 anni il Ministero, che a noi non ha risposto, a voi suppongo vi abbia inondato di risposte. No, in questi 2 anni che strano. Abbiamo dovuto continuare tramite azioni legali, quindi diffide verso il Ministero. Nel frattempo la pratica era stata passata dal Ministero dell'Industria al Ministero dello Sviluppo Economico. Certo, perché nel frattempo giustamente le scrivanie poi sono vicine, ma i faldoni ci mettono anni per passare. E lì però la pratica è rimasta incagliata nuovamente, nonostante il Ministero dello Sviluppo Economico ci aveva comunque assicurato che era stata inserita negli incentivi previsti, vista la crisi economica di questi ultimi anni, per le piccole e medie imprese. Benissimo, benissimo. Allora a questo punto però io vorrei capire una cosa. A noi il Ministero non ha risposto. Voi avete una sentenza del Consiglio di Stato. Ripeto, non ha risposto. Ovviamente siamo sempre aperti alla loro risposta, ci mancherebbe altro. Cioè noi avvertiremo anche il Ministero della messa in onda di questa puntata, in maniera tale che se vorranno intervenire interverranno, però diciamo, diamo per scontato che ci sia ancora silenzio. Voi, ma come fate adesso a entrare in possesso di quello che un organo dello Stato ha detto essere legittimo? Cosa fate? Vi incatenate? Siamo tutti dipendenti o chiudiamo l'azienda? Cioè noi abbiamo cercato in tutti i modi di contattare il Ministero, ci sembra pura follia, devo dire la verità, perché non... Certo. Non abbiamo capito neanche noi cosa dobbiamo fare in più di quello che abbiamo già fatto. Ma voi comunque avete uno studio legale che ancora continua ad assistervi in questa pratica, suppongo. Senta, non abbiamo detto una cosa, voi cosa fate a Malgrate, provincia di Lecco? Noi siamo nel commercio del veicoli, ricambi, accessori. Benissimo, quante persone, quante boccucce sfamate ogni mese? 29 dipendenti. 29 dipendenti, più poi ci sarà l'indotto. E più ci sarà l'indotto, sì. Ci sarà l'indotto. Allora io direi di concludere in questo modo. Ma è possibile che un'impresa che da 21 anni, mi corregga, dottoressa Greppi? 21 anni. Ecco, 21 anni, sta rincorrendo 338 milioni delle vecchie lire, fatevi i conti in euro, 115, quanti sono? 174, 220,60. Benissimo, è giustamente preparatissima. 174 mila euro, già tra l'altro anticipati, quindi avrete acceso dei mutui, sarete ricorsi alle banche, suppongo, no? Anche, giusto? Sì. Ecco, benissimo. Allora, è possibile che un'impresa debba rincorrere 174 mila euro che sono dovute? Appello al Ministero dell'Economia. Chiunque altro possa rincorrere il Ministero per lo Sviluppo Economico, qualcuno dia una risposta, insomma, perché non si accusa nessuno. Semplicemente lo Stato deve dare risposte ai cittadini. Deve, non è una facoltà, è un obbligo nei confronti dei suoi cittadini. Allora, dottoressa Greppi, io ringrazio per il suo intervento. Le nostre porte sono sempre aperte ai dirigenti dello sviluppo economico che sono chiamati in causa. Certamente non è il ministro in prima persona, ma sono i dipartimenti competenti. Io ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Margherita Aina e Roberto Carullo. Vi auguro una buona giornata.